L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo agli oceani milanesi, come ha detto il nostro caporedattore, ovvero a quel bel forum sulla salute e la salvaguardia degli oceani che si è tenuto in settimana al Teatro Franco Parenti di Milano, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda. Certo, sarebbe piaciuto a tutti andare in Sardegna, ma probabilmente per questioni logistiche semplicemente non ci sarebbe stata la stessa folta partecipazione che c'è stata a Milano. Agire con concretezza e con impegno. Poi più avanti ci occuperemo anche di Agenda 21, l'Associazione Nazionale di Regioni ed Enti Locali che sostengono lo sviluppo sostenibile, perché c'è stata in settimana la 20ª assemblea e noi ne parleremo con la Presidente. Torniamo però adesso al One Ocean Forum di Milano, che si è avvalso della partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, il Sustainability Lab dell'Università Bocconi, ed è stato organizzato, come si diceva, dallo Yacht Club della Costa Smeralda. Il presidente dello Yacht Club, Sua Altezza Karim Aga Khan, gran sostenitore del progetto promosso dalla figlia, la principessa Zara. Cercando di ristabilire l'equilibrio fra uomo e natura. Abbiamo raggiunto il punto di non ritorno. Dobbiamo agire adesso, oggi. Ecco, abbiamo sentito qualche passaggio dei loro interventi. Sono grandi nomi, direte, non hanno fatto fatica a raggiungere altri grandi nomi della tutela dei mari e della ricerca. Vero, però non è che professori, ricercatori, professionisti intervenuti al forum si siano mossi solo per i bei nomi di chi li invitava. È che chi conosce il mare sa anche che il tempo stringe per salvarlo e bisogna lavorare sodo e subito e diffondere una coscienza ecologica di tutela degli ecosistemi marini il più in fretta possibile. Abbiamo parlato di questi argomenti con il segretario esecutivo della Commissione Oceanografica Intergovernativa di UNESCO, si chiama Vladimir Ryabinin. La tutela del mare è negli obiettivi dell'agenda ONU al 2030, ha detto Ryabinin nel corso della conferenza, è entrata anche negli accordi di Parigi, ma, come dicevamo, si deve fare di più e più in fretta. Questa conferenza è stata fantastica. Ho visto l'impegno di tutte le comunità che hanno a che fare col mare, ma quello che la rende ancora più importante è stato il messaggio ripetuto in tutte le sessioni di lavoro. Mettiamoci al lavoro. Purtroppo ciò che riguarda l'oceano non è così trasparente agli occhi del mondo e proprio per questo è molto importante proseguire con la ricerca scientifica e portarla a un alto livello di certezza, di robustezza, di capacità, affinché sia utile e serva alle persone. È questo uno dei motivi per i quali sarebbe importante lanciare una campagna scientifica globale, supportata dalle Nazioni Unite, per lo sviluppo sostenibile degli oceani. Servirebbe a dare nuovo afflato alla ricerca e a trovare più investimenti. Ne trarremmo benefici per gli oceani, ma anche per le persone e per il pianeta. Quanto al tempo che passa veloce e che non ci dà la possibilità di aspettare troppo per l'intervento, sentiamo ancora Ryabinin. We need to act now, definitely. And we are acting now. Dobbiamo agire rapidamente, certo, ma stiamo agendo anche ora. Però consideri, ad esempio, che la prima grande campagna scientifica internazionale degli oceani risale al periodo 1971-1980. Dopo di quella, avemo un'esplosione di conoscenza sugli oceani. Noi vorremmo che ce ne fosse un'altra di esplosione. Quindi proponiamo che un nuovo programma di ricerca sia varato a partire dal 2021. Abbiamo bisogno di un paio d'anni per prepararlo e organizzare la rete di studio. Nel frattempo l'UNESCO continuerà a fare ricerca. Avremo presto una conferenza sull'osservazione degli oceani e recentemente ne abbiamo avuta una sull'innalzamento dei livelli del mare. C'è stato anche questo forum che sarà sicuramente una pietra miliare per come la scienza si è messa al servizio delle persone e degli oceani. Mi piace riportarle una frase che ho sentito dire qui. Io sono una goccia nell'oceano. Tu sei una goccia nell'oceano. Insieme siamo l'oceano. Credo che questo sia un ottimo slogan per noi. This is a very good slogan for us. E così Vladimir Ryabinin, come dicevamo, segretario esecutivo della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO. Quattro i campi su cui ci si è confrontati al forum: climate and global changes, cambiamenti climatici e loro ripercussioni sulle acque oceaniche, blue technologies come opportunità di sviluppo dell'economia marittima, ocean literacy, ovvero diffusione di una cultura che permetta la comprensione dell'influenza dell'oceano sulla nostra vita e viceversa, e quarto tema, lo mettiamo in coda solo per comodità di relazione, marine litter and pollution, vale a dire spazzatura e inquinamento marino. Sono enormi quantitativi di rifiuti che finiscono nei mari del pianeta, in particolare se parliamo di plastiche e microplastiche, che è il campo di lavoro di Maria Cristina Fossi, docente di ecologia ed ecotossicologia presso l'Università di Siena, che questa rubrica ha ospitato molte volte fin dal 2013, quando nacque il progetto Plastic Busters, gli acchiappa plastica. Il progetto è nato nel 2013 sotto la bandiera delle Nazioni Unite con il network SDSN-MED, che è coordinato dall'Università di Siena, che è il raggiungimento dei Sustainable Development Goal delle Nazioni Unite, in particolar modo nel nostro caso è l'SDG 14 che si occupa della salute degli oceani. Questo progetto ha l'obiettivo fondamentale di monitorare, mitigare e governare il problema del marine litter nel Mediterraneo. Questa è la finalità fondamentale di questo progetto. Nel 2014 ha seguito tutta una serie di iter per cui è stato coinvolto sotto l'egida dell'UNEP-MAP, la Convenzione di Barcellona, che è il principale attore della governance del Mediterraneo, e finalmente alla fine del 2016 è stato labelizzato da Union for Mediterranean. Cosa vuol dire? Union for Mediterranean è il principale network a livello mediterraneo sulle attività di sostenibilità, dove sono presenti tutti i paesi del Mediterraneo, e questo progetto è stato definito come progetto bandiera sul marine litter da questo network, che è il più importante network a livello del Mediterraneo, che coinvolge i paesi dal punto di vista sia dei ministeri degli esteri e dell'ambiente. Questo passo ci rende ovviamente molto più visibili a livello internazionale e si spera che sia anche una cornice per trovare più adeguatamente dei finanziamenti per le fasi operative. E se questo è il quadro di partenza, si è aggiunto negli anni un nuovo ambito di ricerca, non meno importante. Un argomento su cui stiamo investendo molto ora è lo studio dei possibili impatti delle microplastiche su specie edibili, che è un quesito fondamentale. La FAO ha fatto appunto recentemente un workshop a cui ho partecipato alla fine del 2016, in cui c'erano tutti i grandi esperti a livello internazionale sul tema delle microplastiche, proprio per cercare di capire: ma se queste microplastiche finiscono nelle catene trofiche, quali sono le conseguenze sulla specie e alla fine sull'uomo? Ignoto, la risposta ancora è ignoto nel senso, perché allora, mentre se io mangio una cozza, se la cozza ha le microplastiche, io la ingerisco. Nella stragrande maggioranza degli altri casi, se io mangio un pesce, rarissimamente io mangio il contenuto stomacale dove sono le plastiche. Quindi l'impatto non può essere un impatto diretto. Potrebbe essere legato al fatto che le microplastiche, trasportando inquinanti, cedono questi inquinanti ai tessuti. E questo tema è ancora un tema su cui non esistono delle informazioni concrete, tanto che la FAO nell'ultima pagina ha affermato questo: non esistono ancora evidenze scientifiche per confermare un rischio legato all'assunzione di prede che contengono microplastiche. Vuol dire che è un problema sicuramente, di cui non abbiamo ancora però dei dati scientifici, ma non nel Mediterraneo, su scala mondiale non esiste ancora questa evidenza. L'ultima cosa che credo valga la pena ricordare è che il Mediterraneo è un'area di particolare concentrazione del marine litter, non è una questione di poco. Questa è una questione fondamentale, perché noi sappiamo che esistono a livello oceanico 5 gyre, 5 vortici in cui si accumulano le plastiche con concentrazioni elevatissime, e questo è legato a delle particolari condizioni oceanografiche. per cui in queste zone che sono lontane anche centinaia di miglia dalla costa si accumulano queste grandi quantità di plastiche chiamate erroneamente isole, non sono delle isole, sono zone di concentrazione. Se noi compariamo i dati riscontrati per il macro litter e il micro litter nel Mediterraneo con quelli di questi gyre, i livelli sono molto paragonabili. Quindi così già dal 2015 il Mediterraneo è stato definito il sesto gyre, cioè la sesta zona di accumulo delle plastiche al mondo. E questo è legato al fatto che siamo un mare chiuso, con pochi scambi, con una forte antropizzazione, con dei fiumi che trasportano una grande quantità di plastica, perché l'abbiamo ridetto ripetutamente, il marine litter, la causa non è il mare, l'attività in mare, che contribuiscono in misura dal 15 al 20%, il grande responsabilità delle attività a terra. E si ritrova, diciamo, tutta insieme questa plastica nelle stesse aree in cui i pesci vanno poi per nutrirsi, perché comunque le correnti sì, portano... Più che, ora noi nel nostro caso non ci siamo focalizzati più che altro sui grandi filtratori come le balene, abbiamo fatto questo lavoro che, in collaborazione con l'IFREMER, l'ISPRA, CNR, la Tetis eccetera, che è stato uno dei primi lavori al mondo in cui si è dimostrato come le balene si alimentano nelle aree ad altissima concentrazione di plastiche. E questo perché? Perché le correnti tendono a concentrare in alcune zone le plastiche e il plancton, e quindi le balene vanno lì per mangiare il plancton e si ritrovano a mangiare anche la plastica. Quindi, e queste sono zone anche all'interno del santuario Pelagos. Insomma, speriamo che a questo punto sia chiarissimo per tutti che è responsabilità di ciascuno di noi mantenere l'ambiente pulito a terra per preservare i mari. Facciamo una piccola pausa, poi continuiamo. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, proseguiamo con l'ultima intervista che abbiamo realizzato al One Ocean Forum di Milano, come dicevamo organizzato dallo Yacht Club della Costa Smeralda in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO e il Sustainability Lab dell'Università Bocconi. A chiudere la due giorni di lavori è stata la firma di una carta chiamata Carta Smeralda, un codice etico comportamentale che è destinato alle strutture che promuovono e supportano attività legate al mare. Ce ne siamo fatti parlare dal commodoro del Yacht Club della Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, che l'ha sottoscritta, oltre che ovviamente promossa. Alla fine di due giorni di lavoro che sono stati per noi, che siamo in fondo degli sportivi, che facciamo alto nella vita, è stato un bagno di umiltà anche, di intelligenza, di cultura, che è andato molto oltre forse anche le nostre stesse attese. Chiudere con un documento come la Carta Smeralda, che è la sintesi del nostro lavoro, che è il codice di comportamento che noi speriamo sarà adottato da tutti coloro che intenderanno sottoscriverlo, è appunto il coronamento di tutto questo lavoro. A chi proporrete appunto la Carta Smeralda? In primis, come dicevo, appunto per essere realistici e per non fare dei sogni velleitari, a tutti quegli yacht club, e sono migliaia e migliaia nel mondo, partendo da quelli che ci sono più vicini e quindi dagli yacht club italiani. Prima ancora che la Carta Smeralda fosse pubblica, 300 yacht club hanno già aderito, hanno già dato l'informativa di aderire, e quindi il nostro sbocco più ovvio e più immediato è quello di quei club che, vivendo la nostra stessa realtà sul mare, perché questa è l'attività che si svolge, ha bisogno dell'oceano, sono testimoni del degrado, sono sentinelle perché questo, se possibile, non avvenga più, e quindi quelli sono i nostri destinatari immediati. E infatti abbiamo intenzione di farci ospitare possibilmente al CONI o in qualche posto che abbia una simbologia anche mediatica, i primi 100 club italiani, tra i quali i primi club centenari del nostro paese, e poi tutti gli altri, perché sottoscrivendo questo documento, questa Carta Smeralda, accettino di impegnarsi a fare tutte quelle azioni virtuose che sono grandi e piccole, ho letto, c'è tutto. Che sono il club più piccolo, che ha un numero di soci anche limitato, ha una enorme potenzialità di comunicazione, in particolare sulle nuove generazioni, perché tutti vanno per mare e non ci vuole molto perché seguendo questi principi si possa creare nell'agenda quella che si chiama awareness, cioè consapevolezza di come con pochi gesti quotidiani ciascuno di noi può veramente favorire un cambio di questo trend drammatico che ha portato gli oceani e i mari in questo stato di degrado che quasi sembra irreversibile, come ahimè questi interventi in questi giorni del foro hanno ampiamente dimostrato. Senta, lei ha già anticipato qualcosa rispetto a quella che sarebbe stata la mia ultima domanda, cioè voi che per mare andate regolarmente vedete proprio questo cambiamento anche nelle acque della Sardegna, che è un paradiso rispetto a tanti altri mari? Ma naturale, e anche questa è una cosa che è emersa in questi due giorni, come ormai non c'è bacino, non c'è mare, direi non c'è specchio d'acqua che non sia influenzato da una pollution, da un inquinamento che è semplicemente spaventoso, di cui le plastiche sono l'aspetto più rilevante, più immediato e più evidente, perché forse è anche quello che crea i danni maggiori, ma c'è tutta una serie di altre pollution che si riversano dalla terra al mare e che creano questo enorme problema, questo enorme problema di degrado a livello planetario, che pretende che ci sia un intervento anzitutto immediato per cambiare appunto questa tendenza, per cercare di limitare questo fenomeno, e poi, e questa sarà la nuova frontiera a cui qualcuno molto illuminato sta già pensando, trovare dei sistemi perché si riesca addirittura a ripulirlo il mare, e con delle studi che stanno sviluppandosi in questi giorni, queste ricerche che fanno gli scienziati che si occupano di questo problema, ci sono dei prodotti chimici che riescono a addirittura raccogliere, a assorbire quella che è la plastica, compattarla e quindi a recuperarla per riciclarla, e questa sarà appunto la nuova frontiera. E a questo punto voltiamo pagina, ma restiamo sempre in tema di impegni virtuosi e di agenda ONU al 2030. Si è infatti riunita in questi giorni la 20ª Assemblea del Coordinamento Agende 21, che è un'associazione nazionale di regioni ed enti locali e territoriali che, come definito dalle Nazioni Unite, sostengono la diffusione dei principi per uno sviluppo sostenibile. Ad oggi sono 419 i soci del coordinamento, ce ne sono di grossi, di piccolissimi, perché l'Italia è così, tanti piccoli e qualche grosso. Parliamo un po' dell'andamento dei lavori con Adriana Nepote, presidente del coordinamento delle Agende 21. È una delle mission dell'Agenda 21, quella di poter condividere quelle che sono le best practices, che sicuramente molto più facile nascono nelle grandi città perché hanno accesso a fondi, a informazione in modo più costante che le piccole città, però attraverso l'Agenda 21 la poter condividere, confrontarsi con delle città che hanno dell'esperienza più accentuata sicuramente aiuta a quelle che sono più piccoli. Ho visto che il titolo del convegno era Trasformare il nostro mondo, gli obiettivi per le città sostenibili. Quali sono gli obiettivi che sono più comuni, diciamo, alle città che avete raccolto in questo incontro di quest'anno? Allora, noi abbiamo fatto durante questa edizione dell'Assemblea un piccolo... Abbiamo chiesto alle città di riempire un questionario dove abbiamo chiesto quali sono le loro azioni che stanno facendo in questo, sull'indirizzo delle città della sostenibilità. E viene fuori che le città in genere lavorano molto sul piano energetico, la riqualificazione energetica, la parte della rigenerazione, sono questi gli ambiti in quali in genere le città lavorano. Quindi molto pratici, ecco. Un po' la sostenibilità, un po' anche sul discorso magari della mobilità sostenibile. Sì, quindi sì, ambiti molto pratici, ecco, sì, insomma, sì. Sui quali si può mettere, diciamo, veramente le mani, ecco, insomma, non teoria. Sì. No, sono quelle che ti permettono di creare delle azioni che implementi nel territorio davvero. Cioè, puoi qualificare un immobile, puoi lavorare su la riduzione del diossido di carbonio attraverso la revisione del traffico, puoi creare azioni specifiche sul pedibus, per esempio, per fare camminare i bambini, che comunque ha un impatto anche sulla salute, per quello sono sì le azioni molto specifiche da implementare, però dopo c'è anche tutta un'altra parte, queste sono le azioni, ma dopo c'è tutta un'altra parte sulle quali le città lavorano, che è quella della progettazione europea, e la progettazione europea permette soprattutto lavorare sulle strategie indirizzate alla sostenibilità. Dopodiché, per l'implementazione, che quando hai bisogno di grandi somme di denaro per poter implementare azioni concrete che diano risultati concreti, che aiutino a arrivare a una buona performance di città sostenibile, mancano i soldi, manca parte del governo centrale che investa un po' di più su questi aspetti, e a questo mi riferisco. Quindi magari qualcuno si fa tutto un progetto, l'Europa lo aiuta a metterlo giù, quando è il momento di implementare e quindi ha bisogno di fare qualcosa, ha bisogno di soldi per fare qualcosa, quei soldi non ci sono. Adesso io penso che il governo a questo punto ha fatto un passo molto avanti con l'approvazione il 2 ottobre del Consiglio dei Ministri del piano di sviluppo, del piano per lo sviluppo sostenibile, che prende, che abbraccia in toto il tema dell'Agenda 2030, no? Gli obiettivi, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, se vengono trasferiti quelle che è l'agenda nazionale, il piano nazionale. Dopodiché, però, lo Stato deve adesso davvero mettersi a lavorare, a cercare di creare degli strumenti, delle risorse per poter implementare delle azioni che possano aiutare ai comuni, che sono quelle che in definitiva hanno il compito più grosso, perché i comuni alla fine sono quelle che devono implementare queste azioni e hanno bisogno delle risorse e chiare indicazioni da parte del governo centrale. Bene, grazie ad Adriana Nepote. Ci fermiamo qui per questa puntata. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.